Oggi giornia ojos negros o quineri serne oggi Schwarzenhaufen già matauriuri bailarero casaccio. Giornia, ojos negros, occhi neri, serne oggi, Schwarzenhaufen già, matauriuri.